Aristoradio Convento, siamo in diretta. Diretta, direttissima. Benvenuti a tutti. Buonasera, ristorante Convento di Lonato, Ristoradio. Buonasera. La web radio del Convento di Lonato, molto popolata, già alle 10:35 di sera. Vorrei dire. Come vedrete dalla nostra webcam, dalla nostra diretta Facebook. Finalmente siamo in grande compagnia con i nostri DJ che accompagneranno la serata dei nostri ospiti. Io non mi vedo. Adesso ti vedrai brevissimo. Troppo, allora scuro. Dillo che ce l'hai con me. No, ti vedi. Allora il nostro Alex Angioletti alla mia sinistra. Eccomi. Di occhiali vestito. E il nostro DJ Carlone alla mia estrema sinistra con il suo ormai cappello d'ordinanza. Allora quello chiaro. Adesso arriviamo. Sono io. Ma quello di colore invece sono io. Esatto. Ecco, un giorno dovrai spiegarci quando è nata questo stile cappello così, ma prima di parlare di me abbiamo qua un ospite. Infatti dicevo, no, io volevo ignorarla volutamente perché quello no, assolutamente no, perché abbiamo una grande protagonista di questa serata. Non siamo noi, ma è lei. Ma quella del disco. Considera come che mai? Poi non ha dormito tutta notte perché aveva tutte le amiche di fronte. Mamma quindi. Mia. Emozione, agitazione. Vai, presentati. Cioè, chi è? Chi sei? Più vicina. Io sono Linda. Oh, ma che strano, mamma Linda. Linda. Che pezzo. Che pezzo di disco? Ah, di Linda, scusa. Ah, che pezzo disco, non che pezzo di Linda. Bene, allora Linda, da dove vieni? Da dove vieni, Linda? Lugano. Perché la domanda la faccio io e rispondi a te? Perché cioè, mi veniva più bello. No, aspetta, sai perché io ho capito? Perché essendo di Lugano sta al confine tra Italia e Svizzera. Sì, e quindi essendo frontaliera. Non sa dove dirigere. È famosissima, no. Perché i miei amici vanno proprio a Lugano per. Sì? Per vedere la Linda. No, per fare il corso di cucito di ricamo. Certo. Stupendo. Mamma mia, traffico. Sì, guarda. Abbiamo una concentrazione. Infatti, le amiche collegate. Sono coloro che mi hanno rapita oggi pomeriggio. Ma vuoi fare i nomi? No, aspetta, io farei una prova social in questo momento. Perché social. Loro dicono di stare ascoltando e vedendo, ma noi non ci crediamo. Quindi siamo come San Tommaso, Linda, esatto, bravissima. Sì. O tipo di alzare la mano, fare un gesto e vediamo quante lo fanno. No, ma dico una parola chiave: vai. Luganica Band! Silenzio. Un attimo di streaming, eccole! C'è la reazione, Io mi chiedo, ma che impianto ha quella lì sul cellulare? Sì, esatto, è l'unica senza cellulare, ma ha risposto subito. Secondo me ha vibrato. Cioè, ma si è commossa. Secondo me ha letto la piaga. Attenzione, c'è un ciao Linda da Gabriella Rozzi Bevilacqua. Anzi, la mano Gabriella. Ciao, lei, la mora. Allora, subito carta d'identità, grado di parentela e o amicizia di Gabriella con te? Chi è? È una socia della Guggen. Suoniamo insieme. Sì. Ah, pensavo del Guggenheim. Mi vedevo altissimo. Cos'è la Guggen? Spiega pubblico che ci fa. Cos'è la Guggen? È una Guggen, è cioè, mi dia la Guggen. Cos'è una birra? No, assolutamente. Lascio? È un gruppo di carnevale, un gruppo che suona. Ah, bello. Oddio, dire una filarmonica no, perché però? Noi siamo molto più pop. Cos'è? Perché fanno O? Cos'è che fanno O? Si suona carnevale, non ho capito. Anche io non è un invito a fare un'esibizione. Pubblicità gratuita. Brava Linda. Ah, bello. Ma tu quindi suoni, canti, cosa fai? Io dirigo. Mamma mia. Allora proviamo attraverso il vetro a fare una direzione artistica. Quanto proprio live. Vai. Momento, dai. Cos'hai? Amiche, cosa abbiamo? Gli ottoni? Direttore. Dove stanno gli ottoni? Le viole, i violini. Facciamo questa qua. Facciamo questa. Però lo seguono i gesti perché io divento giusto. Perfetto, sì, perché c'è la risotta. Intanto anche Davide saluta. Ciao Linda, auguri. Ciao, auguri Linda. Davide. Ma attenzione, direttrice. Un, due, tre, qua. È partito. Ah, è un coro muto. È un coro muto da questa parte. Però la stanno seguendo. Loro la stanno seguendo. Forse per noi è muto, loro ma. Loro i piatti, lei al sassofono. Okay. Infatti, lei è molto sassofono. Le maracas. Io ammiro molto la tuba. La sento. Io sento molto la tuba. Scusa, chi porta il pianoforte sulle spalle? Non c'è nessuno che porta il pianoforte. Secondo me, fra un quarto d'ora il convento viene tutto avanti. E non c'è più nessuno nei tavoli. Secondo me, voi due non suonate stasera, suonano loro. Ma questa è impressione. situazione qui. Quindi devono marchettare loro. Noi stiamo aspettando che pompa. È bello perché noi stiamo leggendo anche in diretta la chat del ragazzo. Del ragazzo. Assolutamente ignaro. Assolutamente ignaro. No, ma che silenzio. È stata su. Sì, sì, qui ci sono anche invasioni. Chiudi Carlone. Lui sorveglia su di noi. Ciao carissimo. Noi siamo nelle sue mani. È l'autista, è importante. In pullman. A sorpresa, l'addio annubilato. Io non me l'aspettavo. Okay. Si sono presentate tutte in pullman. Fantastico. Eccoci. Tra l'altro, da vere svizzere hanno aperto praticamente il locale loro. Bravissimo. Cioè, non c'era ancora nessuno. Sì, perché da noi alle 7 si cena e noi adesso aspettiamo che sia da un'ora. Si sono portate tutte le fische. Sono portate avantissimo. Oh, praticamente avanti. Loro tra un'ora ordineranno brioche e cappuccino perché sono già pronte per la colazione. Ma io mi chiedo, cosa ti spinge a sposarti? Ma bravo. Ma cosa ti spinge? L'amore. Ma che bugia. Sta seguendo lo spartito. Attenzione. La direttrice sta seguendo lo spartito. Posso fare una domanda, papà? Un diamante classe A. Sì, ecco, quindi. Non si può? No, se è quella no. L'apriamola. Ti sposi per amore? Edulcora là. Edulcora. Soldi. Poi? Per misure. Per misure. Ma come sì, secondo voi Malalinda, ma la vedete che occhi da romanticona che c'ha? Allora io volevo dire una cosa. Aspetta un attimo, perché abbiamo capito e saputo tante cose. Manca la più importante, chi è il futuro sposo. Non sappiamo chi è. Chi è? Davide. Ciao amore, ti penso tanto. Ma che bello Davide. Sì, settimana scorsa. Davide, ragazzi, ha speso tutto lo stipendio in una sera. Grande. Ok, vai, adesso puoi fare la domanda. Ecco, volevo solamente sottolineare che attraverso il vetro sono organizzatissime, perché qualcuno si è collegato via Facebook e quindi si guarda live. Altri sono andati sul profilo proprio di Risto Radio Convento e la radio web in movimento e sono collegate veramente in direttissima. Carlone, chiudi bene, mannaggia la miseria. Metti il chiavistello. Una cassaforte. Bene. Ok, quindi no, sono molto social. Mi ricordava qualcuno che entrava sempre nel momento sbagliato. Esatto. Sono molto social le amiche di Linda. Io direi, Linda, se hai, visto che hai un microfono davanti, vuoi mandare un messaggio alle tue amiche, a qualcuno, al tuo futuro sposo, non lo so, fai tu. Oppure ci canti un tuo pezzo. Dai, un disco che a tuo piacere, dai. Un altro, aspetta un attimo, che noi dobbiamo anche essere social. C'è un altro messaggio di Gabriella Rozzi, che evidentemente non ha molto da fare. Ciao Luganiga, questo è il messaggio. E poi anche Antonella Germini, grande maestra Linda. Ah, brava la maestra Linda. Tutte fuori. Ecco. Ok, vai, adesso puoi andare con il messaggio. Vi adoro. Antonella è stata bocciata. Ho un gruppo di supporter alla Dio Annubilato Migliore dell'Universo. Vi voglio bene. Cavolo. Grazie di cuore. Ti sei portato l'occhietto? È lei. Esatto, lei. È la Gabriella, sì, giustamente vuole essere nominata. Sposata Marchesi, perché ci tiene. Marchesi. Sì, è diventata una nobildonna, diciamolo. Ma il cuoco? No, non è il cuoco. Noi la portiamo apposta perché va. Il cuoco va sempre bene. Va bene. Abbiamo conosciuto Linda un po' di più del previsto e anche tutta l'orchestra. Grazie. Sì. E intanto senti un po' cosa arriva, un po' di buona musica. Ciao Linda, grazie. Ciao bella.